Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata, benvenuti a tutti da Deborah Rosciani e Salva Danaio. In questa nostra trasmissione ci è capitato spesso di trattare, purtroppo, casi di risparmio tradito, situazioni in cui i risparmiatori, in tanti casi famiglie che con fatica hanno messo da parte un gruzzolo da investire, da accantonare, si sono trovati in difficoltà, hanno perso anche molti soldi e in più hanno dovuto affrontare la delusione, la rabbia per non aver capito e valutato un rischio, per aver fatto una scelta sbagliata. I casi più clamorosi del passato li ricorderete ancora tutti perché hanno occupato tante volte questo spazio qui a Radio 24, dall'Argentina al caso Cirio e Parmalat. Oggi torniamo a parlare di un altro caso di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane estive, la vicenda del convertendo della Banca Popolare di Milano, un termine un po' difficile per chi magari non ha molta familiarità con il gergo finanziario o per chi magari non ha invece avuto per sua fortuna l'opportunità di imbattersi in questo prodotto di investimento. Intanto, che cos'è un convertendo? È un'opzione che si può esercitare oltre che in altri titoli di credito anche per le obbligazioni, che consente di trasformare un investimento in un equivalente in azioni. Il prodotto di cui parliamo è stato offerto negli anni passati al canale retail, cioè al pubblico indistinto, i clienti di questa banca, ma per il suo profilo di rischio forse non era adatto a questa collocazione, il che tra l'altro ha portato anche ad una sanzione combinata dalla Consob a tre dirigenti della banca, fra cui il direttore generale Enzo Chiesa, per un valore complessivo di 377.000 euro. Inoltre, e questo è stato il problema molto importante per i risparmiatori, per i sottoscrittori di questo prestito convertendo, e cioè che la conversione in azioni, che in origine era prevista per il giugno del 2013, è stata invece anticipata al 29 dicembre scorso, con una netta perdita nel prezzo e di conseguenza nell'investimento appunto fatto dalle persone interessate. Oggi i vecchi vertici di questa banca, fra cui l'ex presidente Massimo Ponsellini, sono indagati per truffa, ma a parte questo si sono mobilitate le associazioni dei consumatori, perché naturalmente hanno voluto individuare tutte le strade possibili per tutelare le persone coinvolte in questa vicenda. La Banca Popolare di Milano, la scorsa estate, che comunque non è ancora terminata, ha sottoscritto con alcune di queste associazioni, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, un protocollo d'intesa per una procedura di conciliazione paritetica. Altre associazioni invece hanno deciso di non farlo, ritengono che non ci si debba accontentare di questa soluzione. Noi faremo parlare sia l'una che l'altra sponda, ma soprattutto spiegheremo ai nostri ascoltatori quali sono i termini di questa conciliazione, se ancora non ne avete sentito parlare, se ancora il vostro direttore di banca non vi ha informato di questa opportunità. Oggi ve la spiegheremo noi. Come dovrebbe agire il risparmiatore, quali sono le scelte da valutare, i passi da compiere? Siete allora tra i risparmiatori coinvolti nella vicenda del convertendo? Raccontatecelo all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Se non mi ricordo male, i risparmiatori coinvolti in questa vicenda sono stati circa 15.000, i dati dovrebbero essere più o meno confermati. Noi oggi di tutto questo parleremo con Massimo Cerniglia, coordinatore legale di Federconsumatori, che è una delle tre organizzazioni dei consumatori che appunto, almeno al momento, hanno aderito alla conciliazione paritetica su questa vicenda. Credo che però la strada sia aperta, anche se qualcun'altra si volesse aggiungere può ancora farlo. Avvocato Cerniglia, buongiorno, bentornato a Salvador. Buongiorno dottoressa. Tra l'altro è anche un'esperienza particolare quella da Federconsumatori da raccontare, perché nell'altra puntata in cui ci eravamo occupati di questo caso avevano promesso l'attivazione di una class action, poi hanno fatto un'altra scelta, ci faremo spiegare le motivazioni che li hanno portati sull'altra strada. Su tutt'altra strada invece l'ADUC, un'altra associazione dei consumatori, che ha detto: noi non ci pensiamo affatto ad aderire a questa procedura di conciliazione paritetica, non accettiamo questa elemosina da parte della Popolare di Milano. Ci faremo raccontare appunto allora che cosa suggerisce ADUC ai risparmiatori che si sono rivolti a loro appunto per farsi consigliare su come gestire questo caso di risparmio tradito. Con noi questa mattina Alessandro Pedone, che è responsabile ADUC per la tutela del risparmio, oltre che consulente finanziario. Dottor Pedone, bentornato anche lei, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Per completare il quadro, io ricordo ai nostri ascoltatori che noi questa mattina abbiamo intervistato, prima della partenza della nostra trasmissione, anche l'avvocato Fabio Faina, direttore partecipazione e consulenza normativa della Popolare di Milano, che ci ha spiegato i termini di questa conciliazione, come possono fare i clienti della banca ad aderire, perché hanno deciso di intraprendere il percorso della conciliazione paritetica con le associazioni dei consumatori, anche come valutano anche questa posizione intransigente invece di una associazione dei consumatori, appunto. Vi ho ricordato il numero verde per le vostre domande, avete come sapete anche tutte le altre alternative per interagire con noi, potete scriverci degli sms al 349-238-6666, potete scriverci delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24, oppure potete andare anche a scriverci sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Ho detto tutto bene? No, prima forse ho detto il trattino invece della chiocciola, in ogni caso il percorso per gli ascoltatori è sempre lo stesso ed è noto. Solo rapidamente un'occhiata a questa giornata di borsa che è di nuovo negativa, c'eravamo così forse troppo bene abituati tra giovedì e venerdì scorsi, quando le borse avevano letteralmente brindato al piano salva spread della Banca Centrale Europea, o anti-spread, lo hanno chiamato nei modi più diversi. In ogni caso, questo piano di acquisto di titoli di Stato dei paesi in difficoltà, appunto su queste indicazioni dell'organismo di Francoforte, tra giovedì e venerdì ricorderete bene che tipo di prestazioni hanno registrato le borse europee. In queste prime due giornate della settimana invece si è ritornati alla cautela per gli altri appuntamenti previsti questa settimana, cioè intanto c'è attesa per la decisione della Corte Costituzionale tedesca, che domani dovrebbe pronunciarsi sul fondo salva stati europeo, c'è l'attesa per la nuova riunione della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, tra domani e giovedì, chissà che non si annuncino nuove iniziative di stimolo monetario che all'economia americana servono, perché c'è stato il dato sulla disoccupazione venerdì che ha proprio scontentato la comunità economico-finanziaria. Un altro caso interessante di questa giornata è un caso che riguarda un settore del quale parliamo molto poco, perché parliamo sempre di banche e poco altro da molte settimane a questa parte. C'è una grande azienda britannica, Barbaris, che ha lanciato quello che in gergo si chiama profit warning, un allarme utili, e il titolo sta crollando a Londra meno 18% e oggi trascina a ribasso tutti i titoli del lusso che invece sembravano essere rimasti piuttosto indenni dalla crisi che ha coinvolto invece tutti gli altri titoli appartenenti ad altri settori. Infatti oggi tutti i titoli del comparto scendono in misura anche abbastanza forte sulle piazze europee. LVMH, Louis Vuitton a Parigi meno 4%, Pinot Pritemp meno 3,67%, Gucci, per far capire, a Parigi, sono appunto i due titoli peggiori assolutamente delle CAC 40 insieme alle banche. La stessa Barbaris, come vi dicevo, meno 18%, e Milano, che perde adesso lo 0,89%, Piazza Affari è arrivata a perdere anche 1,5% stamattina. A Milano appunto i peggiori titoli sono Salvatore Ferragamo meno 4,47% e Tots meno 4%, e tanto per far compagnia a queste due aziende anche Luxottica perde il 2,70%. Euro su dollaro a 1,27,91. Lo spread fra BTP e Bund stamattina si era di nuovo risvegliato di cattivissimo umore a 371 fino a 374 punti base, poi è ridisceso intorno ai 360. E questo è tutto per quello che riguarda la borsa. Noi oggi parliamo di risparmio delle famiglie, parliamo del convertendo BPM, di questa obbligazione che la Banca Popolare di Milano appunto aveva distribuito fra la sua clientela qualche anno fa, promettendo naturalmente un determinato rendimento, una determinata cedola e facendo anche una determinata promessa alla scadenza di questo prestito convertendo, però questa promessa non si è potuta rispettare. Allora, magari prima di parlare nel dettaglio delle singole posizioni delle associazioni dei consumatori e di questa ultima novità che consiste nella stipula, nella sottoscrizione di un accordo di conciliazione paritetica tra la banca e alcune associazioni dei consumatori, volevo riepilogare un po' la natura di questo investimento e mi faccio aiutare appunto proprio da Alessandro Pedone, che l'ha seguita molto da vicino sin dall'inizio. Allora, 15.000 risparmiatori che tra il 2009 e il 2013, dal 2009 in avanti, hanno avuto l'opportunità appunto di fare questo investimento con questa banca, confidando di sottoscrivere che cosa, Pedone, e poi che cosa è successo strada facendo? Ma diciamo che il prodotto veniva proposto come una obbligazione della banca, quindi una cosa abbastanza tranquilla, un prodotto tipico per il quale si presta dei soldi alla banca, questo ci dà un tasso di interesse, in quel caso era appunto abbastanza interessante, del 6,75%, e a scadenza si riprende il capitale. Questo era come più o meno veniva proposto, ma non era affatto come in realtà l'investimento era strutturato, perché sottoscrivendo questa obbligazione ci si obbligava contemporaneamente ad acquistare a scadenza le azioni ad un prezzo già prefissato, un prezzo che era molto più alto del prezzo delle stesse obbligazioni in questo momento. Quindi acquistando in quel momento le obbligazioni, le azioni, abbiamo capito, avremmo refuso, speso molto meno per avere le stesse azioni in futuro. Quindi sostanzialmente era un investimento azionario, travestito, mascherato da investimento obbligazionario. Perché parla di un travestimento, Pedone? Mediamente, generalmente, il convertendo funziona così, nel senso che che è abbastanza diffusa la pratica della banca di far sottoscrivere un prodotto di investimento di questo tipo, si chiama convertendo proprio per questo motivo, no? Perché ad un certo punto si converte da obbligazione e diventa azione. Perché parla di una maschera? Perché non è assolutamente diffuso. Il prodotto che è diffuso si chiamano obbligazioni convertibili. Ecco qua. E qui c'è anche il gioco di parole. Le obbligazioni convertibili danno la facoltà al sottoscrittore di convertirle in azioni, non l'obbligo, mentre il convertendo, esistono casi in finanza di convertendo, ma sono strumenti che sono dedicati a investitori professionali, che quindi sanno quello che stanno facendo, e sono molto molto rari, sono pochi i casi di convertendo, cioè dove chi investe ha l'obbligo di convertirla in azioni, cioè è come un acquisto dilazionato delle azioni, ma a un prezzo molto più alto del valore di adesso. Quindi tra l'altro, è una cosa che è insensata in sé farla. Ecco, era già insensata se fosse stata spiegata per bene. Tant'è, finisco subito in certo. Due secondi, tant'è che nello stesso prospetto di investimento vi era scritto che c'era una elevatissima probabilità di avere una perdita a scadenza. Se uno avesse letto il prospetto per bene, i prospetti di centinaia di pagine, c'era già scritto che l'investimento era quasi certamente in perdita, circa l'80% di probabilità. Allora, poi magari spiegheremo anche le motivazioni per cui, ma forse sono proprio quelle che ci ha appena indicato Pedone, per cui la conversione si è dovuta anticipare alla fine dello scorso dicembre. Prima di intraprendere il discorso sulla differente presa di posizione delle varie associazioni dei consumatori, Cerniglia, su quello che ci ha spiegato Pedone possiamo dire di essere tutti quanti d'accordo, almeno voi come associazione dei consumatori, sulle modalità non chiare con cui la banca ha collocato questi prodotti di investimento fra la platea dei suoi clienti? Assolutamente d'accordo, nel merito siamo d'accordo, e noi per primi, già nel dicembre, nel momento in cui c'è stata la conversione, abbiamo contestato il prodotto, lo abbiamo proprio contestato dicendo che non era un prodotto adatto a consumatori, a investitori non esperti. Tant'è vero che noi non è che abbiamo promesso un'azione di classe, ma abbiamo promesso l'azione di classe e 20 giorni dopo la conversione anticipata abbiamo notificato l'azione di classe presso il Tribunale di Milano. Quindi sul merito del prodotto non ci sono dubbi, era un prodotto assolutamente inadatto agli investitori retail, ma un prodotto che doveva essere riservato a investitori professionali. Istituzionali. E tra l'altro questa proposta di conversione si rivolge solo ed esclusivamente a cos'è successo? Pronto? Pronto? Non riesco qua, è un problema nostro, avvocato Cerniglia, ci sente? Sì. Non ho sentito. No, non era nessun problema, era solamente che io non sentivo più in cuffia, ho avuto un attimo un piccolo intoppo tecnico, cose che capitano naturalmente. Sì. La procedura di conciliazione che la banca ha stipulato con le associazioni dei consumatori si rivolge solo a retail, naturalmente poi tutti gli istituzionali che hanno aderito a questo investimento è chiaro che sono fuori, perché sono per natura appunto pronti ad effettuare investimenti rischiosi come questo. Allora, la procedura di conciliazione paritetica, quali sono le caratteristiche di questa iniziativa, quali sono le modalità di adesione per i clienti che vogliono naturalmente aderire, qual è la tempistica? Questa mattina queste cose ce le siamo fatte spiegare da Fabio Faina, direttore partecipazione e consulenza normativa della BPM, sentiamolo. I clienti per accedere alla procedura devono compilare un apposito modulo di adesione. Il modulo sarà disponibile nei prossimi giorni presso una delle banche del gruppo BPM, in particolare Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria, ora fusa con Banca di Legnano e Popolare di Mantova, ma potrà essere recuperato anche presso i siti delle associazioni firmatarie e aderenti al protocollo. Dove si presenta, lo ricordiamo, in effetti il cliente sottoscritto il modulo lo potrà presentare presso una delle filiali del gruppo Banca Popolare di Milano, che prima richiamavo, oppure inviandolo con raccomandata alla segreteria tecnica del convertendo, nonché potrà presentarlo anche a valere sulle associazioni dei consumatori che saranno prescelte dal cliente. Qui ricordo che nei confronti del cliente la procedura, diciamo, di scelta dell'associazione è una procedura che ha una sua obbligatorietà, però questa, diciamo così, questa utilizzazione di questa procedura non comporta nessun impegno ed è gratuita per il cliente. Ricordiamo anche la tempistica che è in favore del cliente è quella che consente lui di presentare il modulo dal 1 ottobre 2012 fino al 30 aprile 2013. Una volta presentato il modulo, la segreteria tecnica del convertendo entro 60 giorni esaminerà la sua pratica e, se sussistono evidentemente dei presupposti di rimborso, ne proporrà al cliente, farà una proposta di rimborso nei confronti del cliente. Quindi, appunto, vi ribadisco le date, la procedura di conciliazione è gratuita per i clienti, poi spiegheremo bene che cosa contempla, e cioè fatto 100 un investimento, quanto promette di rimborsare la banca se si aderisce a questa conciliazione, e appunto si ha tempo fino all'aprile del prossimo anno per presentare la domanda di accesso, quindi dal 1 ottobre al 30 aprile del prossimo anno. Sentirei adesso un'ascoltatrice per poi ritornare ai nostri ospiti. Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, Deborah. Niente, io e mio marito avevamo preso queste convertendo, clienti da 40 anni della Banca Popolare di Milano vicino casa, e quando ci siamo resi conto, semplicemente per un disguido, una discussione che c'è stata con la banca, siamo andati a parlare con l'Ubi Banca sotto casa e abbiamo portato tutte le nostre cose, il numero del conto corrente. Quindi lei voleva interrompere il suo rapporto che durava da 40 anni. Esattamente, voleva andare in un'altra banca. Loro mi hanno detto di lasciare le cose che le avrebbero guardate, poi ci hanno chiamato e ci hanno detto: ma queste obbligazioni che voi avete della Popolare di Milano, guardi che hanno dei problemi. A quel punto lì, Deborah, ci siamo resi conto, perché a quel punto lì io sono andata a leggere attentamente, tanto ci fidavamo della Banca Popolare di Milano che non pensavamo mai di stipulare una cosa rischiosa, e abbiamo scritto alla Banca Popolare in questo senso, dicendo: ma guardate che in tanti anni avrete visto innumerevoli volte che il nostro portafoglio non era da queste obbligazioni, azioni, non so come le avete chiamate. Questo investimento così rischioso, era più modesto, più prudente. L'impiegato mi ha detto: signora, siamo molto dispiaciuti, ma è finito tutto così, cioè 10.000 euro sono diventati niente, Deborah, proprio niente. Infatti, senta Paola, poi magari proprio prendendo il suo caso mi faccio aiutare da Alessandro Pedone su 10.000 euro, appunto, che cosa è diventato con questo possibile riscatto anticipato, appunto, in dicembre, questo investimento, e adesso che cosa potenzialmente potrebbe diventare, visto che comunque lei, Paola, in ogni caso è diventata anche azionista della banca, anche se le azioni adesso non valgono moltissimo, ma in ogni caso anche questa prospettiva di crescita, poi questo Faina ce lo spiega. Detto questo, lei che cosa ha fatto, cosa vuole fare adesso? Dunque, noi ci siamo rivolti alla Federcontribuenti su consiglio dell'Ubi Banca, che ha preso la pratica in mano. A quel punto lì ha scritto alla Popolare di Milano e dicendo appunto che noi non eravamo clienti di quel genere, cioè che facessero investimenti rischiosi. La Popolare di Milano mi ha risposto educatamente dicendo che avrebbe tenuto in considerazione la mia situazione, che se ci fosse stata qualche cambiamento me l'avrebbe comunicato, e non ho saputo più niente. Certo. E consideri che voi state parlando di queste convertendo, mi pare dall'anno scorso. No, abbiamo fatto un'altra puntata forse tra giugno o luglio, Paola, non mi ricordo se ne abbiamo fatto anche un altro in dicembre, quando appunto c'era la notizia della sostanza conversione anticipata in azioni, questo non me lo ricordo, sicuramente l'abbiamo fatto un'altra scorsa estate. Ci occupiamo oggi del convertendo distribuito fra il pubblico indistinto dalla Banca Popolare di Milano negli anni passati, un prodotto di investimento piuttosto complicato, molto differente da un'obbligazione convertibile, che è un investimento che si fa con la certezza certezza di acquistare un'obbligazione che a scadenza diventa invece una serie di azioni. Qui la conversione avveniva con lo stesso principio, ma con una modalità piuttosto complessa e sulla base di determinate condizioni che si sarebbero dovute verificare nel periodo della sottoscrizione di durata dell'investimento. Che cosa è successo? Che per la verità poi questa conversione è stata fatta con un grande anticipo dalla banca rispetto al previsto e con una grande perdita che naturalmente ha danneggiato molti investitori, come per esempio è successo all'ascoltatrice che ci ha chiamato prima, Paola da Roma, sul cui caso chiedo un commento ai nostri ospiti di stamattina. Due associazioni dei consumatori, una che ha aderito al protocollo di conciliazione firmato con la Popolare di Milano qualche settimana fa e una che invece ha detto no, noi alla conciliazione non ci stiamo perché questi casi vanno portati in tribunale. Comincio allora con Massimo Cerniglia di Federconsumatori, fra le associazioni firmatarie di questa conciliazione. Cosa ne pensa del caso di Paola da Roma? Secondo lei che cosa dovrebbe fare? 10.000 euro quasi completamente persi, a prescindere dal fatto che ha comunque adesso le azioni della Popolare di Milano in mano, magari ovviamente adesso rispetto all'investimento iniziale sarà molto poco quello che ha, potenzialmente potrebbe crescere, ma non è detto. Lei gli suggerisce di intraprendere la conciliazione con voi? Ma guardi, la conciliazione, c'è un grosso equivoco, la conciliazione è una conciliazione volontaria, sì. È un tentativo che il risparmiatore fa per realizzare in tempi brevi, in modo soddisfacente, si immagina, perché se uno accetta, i propri diritti. Dopo il tentativo di conciliazione, se i propri diritti non sono stati realizzati, c'è la strada giudiziale che è resa ancora più agevole dal fatto che le risultanze che vengono acquisite nel tentativo di conciliazione, quindi se nel tentativo di conciliazione non si è ottenuta una proposta transattiva da parte della banca, queste risultanze vengono utilizzate nella mediazione civile e danno la possibilità, tramite queste risultanze e per il fatto che si è esperito il tentativo di conciliazione, di non spendere quelle 500, 600, 700 euro per la mediazione, ma di spendere poche decine di euro per il tentativo di conciliazione in sede civile, perché l'articolo 7 del regolamento sulla mediazione dà la possibilità appunto di recepire quelle che sono le risultanze. Quindi non è che chi aderisce alla conciliazione poi deve firmare qualche documento che in cui gli viene chiesto eventualmente di rinunciare a vertenze legali successive. Assolutamente. Perché qualche volta in passato sull'Argentina ha capito anche questo. Ecco. Addirittura chi ha in corso un'azione legale, l'azione legale viene sospesa per quel breve periodo di 60 giorni della conciliazione e poi l'azione legale riprende automaticamente. Il suo corso. Quindi non c'è da fare nessun discorso, nessun formalismo da un punto di vista neanche giudiziario. Viene solamente sospeso, nel senso che viene rinviata l'udienza a dopo la decisione della conciliazione. Quindi questa è un'opportunità che è stata data, come è stata data in passato anche in altri casi, per esempio io ricordo il famoso prodotto My Way for You del Monte dei Paschi di Siena, dove si è fatta questa conciliazione e si sono conciliate 28.000 posizioni. In un caso di massimo successo, avvocato Cerniglia, aderendo alla conciliazione, quanto si può vedere restituita Paola da Roma? Restituito. In caso di massimo successo si può vedere restituito il 100% della perdita, però questo chiaramente in casi particolari dove sono state messe, diciamo, a repentaglio degli interessi primari da parte del risparmiatore. A occhio, il caso di Paola potrebbe essere uno di questi, una persona dalle caratteristiche di risparmiatrice molto prudenti, molto modeste. Secondo me il caso della signora Paola, se non sono stati messi, diciamo, a repentaglio interessi primari come il diritto all'abitazione, il diritto alla salute, nel caso in cui non si sia creata una difficoltà veramente rilevante per il risparmiatore, per il fatto di aver aderito alla sottoscrizione del titolo, allora praticamente c'è un rimborso pari al 60%, sino al 60%. Infatti il protocollo prevede tre diverse misure, tre differenti categorie ABC, chiamiamole così. E allora perché si è voluta fare questa differenziazione? Poi ci entriamo ancor più nel merito. Anche questa è una domanda che abbiamo rivolto all'avvocato Faina della Popolare di Milano. Sentiamo che cosa ci ha risposto. Abbiamo abbandonato, diciamo così, i formalismi e abbiamo cercato di trovare nella posizione del cliente, d'intesa con le associazioni, dei criteri che potessero essere rispondenti di quella che era la loro, diciamo, consapevolezza nell'investimento. e oltre a questo anche un grado, diciamo così, di capacità di investimento in prodotti finanziari ad rischio, come effettivamente convertendo, questo sulla base di quelle che sono le caratteristiche del cliente e la sua abitudine agli investimenti in prodotti non, diciamo così, tranquilli, quali titoli azionari. Su questa base la ricerca ha comportato una possibilità di andare a un rimborso che arrivasse sino al 100% della perdita che lui ha subito. Ecco, se mi consente, questo è un passaggio molto importante, perché ritengo che valga la pena di ricordare che rispetto ad altre situazioni che pure in passato si sono, come conciliazioni paritetiche, affrontate, in questo caso il cliente, oltre ad aver, come dire, percepito degli interessi significativi in questo periodo di 2 anni e mezzo, perché ricordiamo che il tasso di interesse su questi titoli obbligazionari del convertendo era di circa 6,75, quindi quasi il 7%, ma soprattutto il cliente oggi è in possesso di un'azione, quindi è diventato azionista, azione che resta nel suo patrimonio. Quindi quando nell'affrontare, diciamo così, la misurazione del rimborso del cliente si è affrontato il tema della perdita che ha subito il cliente, abbiamo necessariamente dovuto basarci non sul capitale investito, ma quello che era il capitale investito, diciamo così, ridotto di quel rendimento che prima ricordavo, ma soprattutto di quello che è il valore del titolo che, d'intesa con l'associazione, abbiamo stimato in, come perdita totale, 65%, assumendo il valore del titolo a un prezzo, diciamo, medio di borsa in un arco di tempo abbastanza ampio, che poi è stato fissato in 0,39. Oggi vediamo che già il titolo quota oltre 0,45, quindi questo significa che il cliente oggi ha nel suo portafoglio, come dire, un pochino di capitale della banca, che evidentemente, restando a lui, la banca non può, come dire, evidentemente rimborsare. Adesso do la parola ad Alessandro Pedone, però per completare questo ragionamento ci volevo mettere insieme anche la testimonianza di Felice, di un nostro ascoltatore. Buongiorno, da Milano. Buongiorno. Pronto? Sì, ci siamo. Ecco, beh, io sono, ero una correntista da 40 anni della Banca Popolare e quando avevo dei risparmi andavo a investire. Io sono stato truffato, nel senso che, come è successo a tutti, hanno detto che alla fine c'era la possibilità di scegliere tra la conversione o il rimborso del capitale, e invece era obbligatoria la conversione in azione. Questo è successo in tutte le agenzie, non solo nella mia. E la Banca Popolare ha poi trasferito tutte le persone che avevano piazzato questo convertente, l'ha fatta ciclare, quindi nella mia agenzia l'ha fatta girare in altra agenzia. Premesso questo, io volevo chiedere, l'accordo che hanno fatto è altrettanto truffaldino, perché lei può chiedere alla Federconsumatori. Io avevo alla data alcune azioni della Banca Popolare nel mio portafoglio. Solo per il fatto di aver avuto qualche azione della Banca Popolare, io sono messo tra quelli che non avranno nessun rimborso. C'era se è vero o non è vero. Allora, Felice, vabbè, qui dobbiamo ritornare allora a Massimo Cerniglia. Avvocato Cerniglia, è così? Ecco, guardi, su questo c'è, è sorto un problema, perché noi a livello di protocollo d'intesa avremmo voluto inserire tutti, e cioè obbligazionisti e azionisti. Chi vi ha detto di no? Purtroppo la banca ha avuto questa presa di posizione di inserire solo gli obbligazionisti e coloro che avevano esercitato il diritto di opzione, diritti di opzione che non erano stati esercitati dagli azionisti della banca e quindi da clienti che avevano esercitato. E quindi, insomma, Felice, noi abbiamo ugualmente preso questa posizione, perché in effetti la nostra azione di classe, se noi ci ricordiamo, si riferiva solamente agli obbligazionisti, in quanto gli azionisti, in considerazione del fatto che avevano acquistato entro il settembre 2009, non potevano entrare nell'azione di classe, anzi luglio del 2009, ma ormai l'azione di classe è tramontata, avvocato, nell'azione di classe, perché a livello temporale noi sappiamo che l'azione di classe era esperibile solamente dal 30 agosto del 2009. Ma ormai è acqua passata, adesso dobbiamo andare avanti, c'è un'altra iniziativa che i sottoscrittori hanno l'opportunità di eventualmente... Ecco, però voglio precisare, voglio precisare che noi, come Federconsumatori, abbiamo rinunciato all'azione di classe, di classe che era limitata a questi soggetti, però non abbiamo rinunciato al diritto di tutelare i risparmiatori in tutte le opportune sedi. Tutti i risparmiatori che non avranno praticamente una proposta compatibile con le proprie esigenze da parte della banca saranno tutelati da parte della Federal Consumatori in tutte le opportune sedi. Speriamo, speriamo, avvocato Cerniglia, non perché io metta in discussione naturalmente. È una certezza, così come abbiamo fatto per tutti gli altri crack finanziari, abbiamo fatto per Cirio, Parmalat, Argentina, ottenendo il 98-99% dei risultati utili in sede giudiziaria. Allora, Alessandro Pedone, Aduc, da che cosa vuole cominciare? Mi aiuta a capire che cosa potrebbe succedere, per esempio l'ascoltatrice che ci ha sottoposto prima il suo caso, i suoi 10.000 euro investiti in questo convertendo. Lei dice: io adesso praticamente non mi ritrovo più niente se non una manciata di azioni. So che la conciliazione non è la vostra, ma è per capire. Parla molto chiaro questo provvedimento. Potrebbe essere risarcita, Paola, in teoria o al 100% o al 60% della perdita subita, il che non significa essere risarcita del 100% dei 10.000 euro iniziali. Esattamente. Hanno quantificato la perdita subita nell'ordine del 65%, quindi quando parlano di 100% in realtà stanno dicendo 65% del valore nominale. Il fatto che un investimento abbia prodotto delle cedole non significa che quelle debbano essere detratte dal capitale che io ho investito, perché le cedole sono il normale andamento di un investimento finanziario. Quindi diciamo 100% diventa 60% perché vengono sottratte le cedole maturate nel frattempo, che non sono neanche tutte quante quelle a cui teoricamente si aveva diritto, ecco. Ed anche il valore teorico delle azioni. Ora, qui stiamo parlando di obbligazionisti che si ritrovano in mano delle azioni che hanno un comportamento molto diverso, hanno valori che possono fluttuare molto. Prima il dottor Faina, col quale io ho parlato ad aprile perché ci ha chiesto un incontro, diceva che adesso le azioni valgono di più. È vero, ma si tratta di 4-5 giorni che ha questo valore, 15 giorni fa valevano ancora meno. Si tratta di un investimento, a parte il fatto che ci riferiamo sui 10.000 euro di questa risparmiatrice, grosso modo saranno circa 1.000 euro di azioni, quindi comunque sia è sempre il calcolo delle cedole più questo valore delle azioni è sempre inferiore al 35% che loro dicono che è la parte che dovrebbe ridurre il danno. In ogni caso si tratta di azioni e quindi questi signori le azioni se le prendessero loro, perché gli investitori volevano le obbligazioni, non le azioni, pensavano di fare delle obbligazioni, quindi se le riprendessero e dessero il valore nominale, cioè l'investimento che i signori hanno fatto. Non è assolutamente giusto dare le azioni a queste persone se si riconosce che l'investimento non era adatto a quella persona. Pedone, questo come sì, primo punto. Certo. No, volevo subito anche sapere le motivazioni per cui voi avete detto un no assolutamente drastico e alla conciliazione. Ma guardi, qui io non voglio minimamente far polemica perché lo so che lei con grande responsabilità si modererà nel linguaggio, so non, la sua presa non è questo. Il concetto di base che cosa questo? Fate voi nella sostanza, ecco. Ad aprile il dottor Faina ci chiese un incontro per valutare questa cosa. Noi, pur essendo sempre molto scettici su tutte queste tipi di tavole di conciliazione, non abbiamo mai partecipato in passato e si sono sempre rivelati delle cose poi che portavano grandi delusioni ai risparmiatori, a partire dai My Way for You per tutte le altre. Ma indipendentemente da questo, noi per spirito di collaborazione e soprattutto cercando di fare gli interessi delle persone che sono rivolte a noi, siamo andati ad ascoltare. Abbiamo detto alcune cose che per noi erano fondamentali. Da quel momento, cose che poi appunto nel protocollo di conciliazione non si sono minimamente verificate, da quel momento hanno interrotto qualunque dialogo con noi e ci hanno proposto di aderire poi successivamente a questo protocollo che hanno concordato solo con queste tre associazioni. Siccome questo protocollo contiene una serie di cose che per noi sono proprio assolutamente inconcepibili, come il fatto che si danno dei soldi alle associazioni di consumatori in separata sede, non dichiarandole, sono cose che per noi non stanno nemmeno né in cielo né in terra, noi con questa roba non vogliamo avere niente a che fare. Gli investitori che riterranno di sottoporsi a questa cosa, poiché purtroppo la banca sa bene che con questa giustizia loro partono da una posizione di forza, possono fare la proposta che gli pare perché sanno che molte persone hanno il terrore di rivolgersi in tribunale, però noi non vogliamo partecipare a questo ricatto. Quelli che ritengono di non partecipare oppure ritengono di partecipare e poi non sono soddisfatti, se vogliono far valere le loro azioni in sede giudiziaria potremo dare una mano come abbiamo sempre fatto in passato. In ogni caso, quella è la strada che voi suggerite di percorrere, perché comunque ai vostri aderenti un'indicazione pratica la darete. Certo, allora noi non diciamo che sbagliano se vogliono partecipare, perché se gli investitori vogliono provare questa strada non diciamo affatto che sbagliano, semplicemente noi non ci vogliamo mettere nel mezzo perché riteniamo che sia una cosa che... Su come questo dire, è stato chiarissimo, sì. Ecco, quindi l'ho già detto prima, però se vogliono provare 60 giorni di tempo, 90 giorni, quello che sarà perché poi inizierà a ottobre, eccetera, voglio dire, tentare non costa nulla, si daranno un po' di soldi a queste associazioni di consumatori che partecipano, ben venga, saranno sicuramente soldi spesi bene, ma dopodiché... Beh, però voglio dire, anche un risparmiatore che ha un convertendo e che vuole rivolgersi a voi per avere un'assistenza su questo caso e che non vuole aderire alla conciliazione, non è che non fa il pagamento di un abbonamento anche alla vostra associazione dei consumatori? Adesso se la vogliamo mettere su questo piano... Noi siamo un'associazione diversa da questo punto di vista, noi diamo assistenza a chiunque, sia chi si iscrive sia chi non si iscrive, non chiediamo tasse di nessun tipo, chi vuole ci dà un contributo volontario e la nostra assistenza è di tipo informativa. Noi, come nessuna associazione di consumatori, non può rappresentare in giudizio un... Quindi non metterete a disposizione il legale del caso che magari raggruppa un tot di risparmiatori tutti coinvolti nella medesima vicenda per portarli davanti al tribunale. Esattamente, chi vuole, però l'assistenza che fa l'AUC è di tipo informativo. E l'ultima cosa che volevo dire è la legge prevede il tentativo di conciliazione obbligatorio. Sì. Tutti quelli che hanno tentato di fare questo tentativo, la banca non si è mai presentata, quindi se la banca aveva un'intenzione seria di conciliare, si presentava a questi tavoli di conciliazione, cosa che non ha mai fatto e non farà in futuro per dichiarazione della stessa banca. Secondo lei, per esempio, l'arbitro bancario finanziario, noi abbiamo parlato anche venerdì scorso dei vari tavoli a cui si può mediare sulle controversie finanziarie, appunto su casi di controversia finanziaria, l'arbitro bancario, la Camera Consob, ci sono altre... circostanze alternative? L'arbitro bancario non è competente per materia, mentre l'ombudsman, la Camera di conciliazione anche l'ombudsman, che adesso è la materia di investimento, sì. La materia di investimento però è rimasta lì. Vabbè, questo è un tema che adesso non... Sì, però la Camera di conciliazione Consob sì, ma in ogni caso ci sono tutte le varie strumenti di conciliazione che sono appunto quelle fasi obbligatorie che bisogna passare prima di tentare una vera e propria azione legale, ma il problema è semplicemente che la banca non si presenta. Mm-hmm. Massimiliano da Milano, rapidissimo, grazie. Massimiliano, che succede? Sì, è cascato, no? Si è fatto... Ce la sentiamo benissimo, rapido perché andiamo verso la chiusura, sì. Beh, una cosa velocissima, senza polemizzare, col signore dell'AUC, che comunque è la prima consulenza gratuita e dopo prevede una quota associativa. Vabbè, detto questo, io ho preso convertendo chiedendo una consulenza in agenzia, avendo il conto corrente, mi è stato detto che il convertendo sarebbe stato convertito in azioni al valore della quota al momento della conversione e quindi l'ho fatto, però sono andato a casa e l'ho acquistato online. Sì. Successivamente, venendo fuori il tutto, sono tornati in agenzia e hanno negato la questione che sarebbe stata convertita al valore dell'azione attuale. Sì. E poi dalla conciliazione ho letto che chi ha comprato online è escluso dalla conciliazione. Credo... Chiedevo perché. Va bene, Massimiliano, grazie. Cerniglia, so che lei ha anche un bel po' di cartucce al suo fucile adesso. Volevo solamente dire questo. Il dottor Pedone, che evidentemente non è un giurista... Io sapevo che finiva così. Non sa che in sede giudiziale, quando tu vai in sede giudiziale e determini il danno, il giudice detrae le cedole. Perché in tutte le sentenze, Cirio, Parma, Argentina e quant'altro, il giudice ha sempre detratto le cedole, perché deve dare il danno, l'effettivo danno che risulta nei confronti del risparmiatore. Quindi è chiaro che nel protocollo d'intesa sono state tolte, così come avviene in sede giudiziale, sono state tolte le cedole percepite dal risparmiatore. Massimiliano chiede. Voglio poi dire, mi scusi, che il rimborso spese che viene dato all'associazione dei consumatori non è una regalia che viene fatta all'associazione dei consumatori, i quali lo accettano e quindi abdicano agli interessi dei risparmiatori, ma è solamente un rimborso spese che in tutte le procedure conciliative paritetiche viene data alle associazioni dei consumatori che devono approntare delle spese per partecipare ai tavoli. Come anche ad Aduc che accetta eventualmente. Poi altra cosa, e concludo, voglio dire, le conciliazioni paritetiche, i tavoli di conciliazioni paritetiche sono state dichiarate dal Parlamento europeo il 25 ottobre del 2011 come delle pratiche ottime che sono state utilizzate dalle associazioni dei consumatori. Poi ognuna fa quello che vuole, anche per esempio Altro Consumo a tanti tavoli non interviene, per cui ognuno fa le scelte che vuole. Io devo chiudere la trasmissione, mi sono con l'ultima parte del nostro programma scavata la fossa da sola. Massimiliano da Milano chiede sull'acquisto online, Cerniglia, dalla conciliazione escluso? Purtroppo escluso perché si ritiene, e secondo me anche a torto, che chi praticamente negozia online dovrebbe essere una persona più esperta e quindi più consapevole delle proprie scelte. Allora, la nostra trasmissione termina qua perché devo salutare appunto gli ascoltatori. Sulle Convertendo e sulla conciliazione trovate sul sito della banca, anche sul sito delle tre associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, che hanno aderito tutti quanti i dettagli. Ve li metteremo anche su Facebook e non vi arrabbiate, cercheremo di continuare a tenervi informati su questa intricatissima vicenda. Grazie ad Alessandro Pedona, Massimo Cerniglia, domani buona giornata, saremo in diretta dalla Fiera del Levante di Bari.